Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Venerdì 6 luglio 2012, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono sempre Matteo Caccia e continuo a raccontarvi le migliori storie che sono arrivate a questo programma durante tutta la stagione. Questo è il meglio di Voi siete qui. La storia di oggi, la prima delle due storie di oggi, è una storia molto molto delicata e molto toccante. Quando ci è arrivata, noi l'abbiamo letta, ci siamo commossi, impressionati, stupiti e alla fine abbiamo gioito, ed è stato un po' tutto l'insieme di queste emozioni che ha deciso per noi, e alla fine quindi abbiamo deciso di raccontarla, di mandarla in onda e di sentire soprattutto la voce di Eros, che l'ha scritta e che questa storia l'ha vissuta. È una storia che all'inizio è molto cruda, perché parla di un incidente grave anche, che avviene a un motociclista giovanissimo. Mi ricordo che qualche giorno fa ho incontrato al cinema una signora che ascoltava il programma e quindi abbiamo fatto quattro chiacchiere e mi ha detto: guarda, io ascolto sempre il tuo programma, ma la puntata che mi è rimasta più impressa è stata quella in cui raccontavi di un incidente in moto, e devo dire che quell'immagine lì mi è rimasta impressa per giorni e un pochettino ti ho maledetto. Poi però alla fine, visto com'è andata Eros, ho pensato che fosse giusto che tu l'avessi raccontata, ed è la stessa cosa che pensiamo noi, e questo è il motivo per cui raccontiamo oggi questa storia. Dunque, immaginate di avere poco più di 20 anni, di essere con la vostra fidanzata in una splendida giornata d'estate e di stare correndo con la vostra moto su un'autostrada. A un certo punto succede quello che nessuno vorrebbe succedesse mai in generale nella vita, né a se stessi né agli altri, e la storia, diciamo, la giornata si complica molto e la vostra vita anche si complica molto. Da quell'incidente però fortunatamente vi rialzate e arrivate a fare qualcosa di effettivamente straordinario e fuori dal normale. Questa storia, secondo me, più di tutte fa notare come anche un avvenimento traumatico e straordinario come quello che succede ad Eros di fatto appartiene un po' a tutti noi. Tutti noi siamo caduti e in qualche modo ci siamo rialzati. E io però voglio veramente approfittare ancora oggi che la racconto di nuovo questa storia per ringraziare Eros per la sua generosità e anche e soprattutto per il garbo e la semplicità con cui ha raccontato la sua storia. Era il 28 di luglio del 2002. Avevo 21 anni, ne avrei compiuti 22 due giorni dopo. Io, con la mia fidanzata, ora mia moglie, eravamo in sella alla mia moto, sull'autostrada del Brennero. Una caldissima giornata d'estate, diretti verso un laghetto del Trentino. D'estate il Trentino è un luogo splendido e la gente lo raggiunge per passarci del tempo. Il Trentino però è anche la porta dell'Italia per chi dalla Germania o dall'Austria viene a trascorrere le sue vacanze qui da noi. Quindi quell'autostrada, la A22, è sempre un lungo biscione di auto. Io mi trovavo sulla corsia di sorpasso, a circa 110-120 km all'ora. La corsia di destra era un'interminabile colonna di auto e di caravan. All'improvviso, dietro di me, sopraggiunge un'auto. Io mantengo la traiettoria e la velocità. Visto il traffico, era impossibile per me rientrare a destra e far passare quest'auto. Questa però non si dà pace e mi sta a distanza estremamente ravvicinata, facendomi gli abbaglianti per segnalarmi di volere passare. Io, non avendo la possibilità di rientrare, mantengo la mia traiettoria e continuo tranquillo. Questo veicolo però non la smette di starmi vicino, fino al momento in cui sento la moto oscillare nella parte posteriore e vedo il cofano dell'auto vicinissimo al ginocchio della mia gamba sinistra. In un attimo sento un colpo che mi fa balzare via. Vedo la mia ragazza decollare letteralmente sopra di me, come se fossimo stati catapultati. E io, volando via, finisco rotolando molti metri più avanti rispetto al punto d'impatto. Il giorno prima avevo una mostra di scultura, perché prima facevo scultura in marmo. Avevo sì la passione della moto, però ero molto molto molto diligente nella guida, perché era proprio una passione proprio per il mezzo, non per la velocità. Stavamo andando in un laghetto di montagna nel Trentino, ma abbiamo percorso solo pochi chilometri. Passavano numerose automobili che non si fermavano, anzi facevano lo slalom tra me e la mia fidanzata, che stava almeno 30 metri più avanti, stesa immobile. Io mi sono ritrovato sull'asfalto della corsia di sorpasso, nei pressi della riga bianca laterale, con le auto che mi sfrecciavano a pochi centimetri e non si fermavano. Non so quanto sia durata la caduta. Nella mia testa però è stato come un film in cui i fotogrammi sono separati l'uno dall'altro. E le immagini non sono a rallenti, eh? No, sembrano proprio separate, in modo che riesci a vederle una ad una, in ogni minimo dettaglio. Sono passati pochi secondi quando ho tentato di rialzarmi. Ed ero tutto intero, non avevo dolore. Ma al primo tentativo di stare in piedi ho avuto la sensazione di mettere il piede in una buca, sull'asfalto, e sono caduto. Mi sono sfilato il casco e ho tentato di alzarmi nuovamente, ma il mio piede destro sprofondava sempre in questa buca, facendomi cadere. Le macchine passavano, il caldo era soffocante, e nella confusione iniziai a sentire una voce che mi gridava di stare fermo e di non togliere il casco. Finalmente qualcuno si era fermato. In quel momento abbassai la testa e guardai il suolo per localizzare la buca che non mi permetteva di alzarmi. Di buche nemmeno l'ombra, ma la mia gamba destra, pochi centimetri sotto il ginocchio, non c'era più. Non ricordo cosa pensai, non ricordo cosa feci, non ricordo dove guardai. Nel giro di pochissimi secondi, un ragazzo alto, robusto e calvo ha attraversato l'autostrada. È venuto verso di me, con le macchine che continuavano a sfrecciare. Nel frattempo un altro ragazzo, un motociclista, si era fermato e con il cellulare in mano era già in contatto con il 118. Il momento era complicato, le macchine continuavano a passare e uno dei due, con grande tranquillità, si è sfilato dai pantaloni la cintura e l'ha stretta intorno alla mia coscia. Io lo sentivo lì, vicino a me. Lui ha cominciato a parlarmi con grande serenità. Dava l'impressione che tutto fosse sotto controllo. E mentre stringeva la mia gamba, la sua voce mi dava sicurezza. «È tutto a posto», mi disse. Il mio pensiero era rivolto alla mia ragazza. Gli chiesi di lei e lui mi rispose di non preoccuparmi, che stava bene. La sua presenza mi rassicurava, come una specie di gigante buono che mi aveva preso tra le sue braccia. Io però avevo capito cos'era successo alla mia gamba. Lui mi disse di essere un militare, un alpino. Mi raccontò che era di Milano, che si chiamava Riccardo, e che stava tornando a casa per le vacanze, e rimase con me per quei lunghi 15 minuti. La persona che mi ha soccorso, ogni tanto lo sento ancora, anche perché grazie al suo pronto intervento, appunto, ha fatto sì, salva la vita, ma aveva anche salva la parte sotto il ginocchio. Diversamente avevo anche potuto amputarmi sopra il ginocchio una volta arrivati in ospedale. Le auto passavano di continuo e non si fermavano. Potevamo essere investiti in qualsiasi momento. Abbiamo parlato tanto, io e Riccardo, fino all'arrivo dell'elicottero. Lui mi ripeteva: non ti preoccupare, tornerai a fare una vita normale. E io non so nemmeno il perché mi fidassi di quell'uomo enorme che aveva attraversato l'autostrada per venire a salvarmi. Sapevo che diceva la verità, o forse non potevo fare altro che credergli. Lui era lì con me e non mi ha mai lasciato. Teneva sempre quella cinghia stretta sulla mia gamba. Ho scoperto poi che senza il suo intervento mi sarei potuto dissanguare in pochi minuti. All'arrivo dei soccorsi e a traffico bloccato, auto di curiosi si fermavano anche sulla parte opposta dell'autostrada per guardare lo spettacolo. E Riccardo mi proteggeva anche lì, gridando che non c'era niente di bello da vedere. Mi sentivo protetto dal suo corpo e da quella sua voce sicura, che ricordo benissimo ancora oggi. Io sono stato sempre lucido e cosciente. Non ho mai perso i sensi fino all'arrivo all'ospedale di Verona, in elisoccorso, un volo durato pochi minuti. Quando mi sono svegliato ho avuto dolore per oltre 3 mesi, ma avevo salva la vita e l'articolazione del ginocchio. E tutto grazie alla prontezza e alla preparazione di quel militare che ha bloccato l'emorragia. La mia storia però non finisce qui. Un anno dopo, con molti problemi e difficoltà buttate alle spalle, ho avuto l'idea di iniziare un'attività fisica, forse l'attività fisica per eccellenza, la corsa. Ho iniziato a correre con una protesi. Dopo aver acquistato una gamba da corsa, ho cominciato a dedicarmi all'attività sportiva, arrivando a partecipare alle Paralimpiadi di Atene nel 2004 e correndo in 12 secondi e 12 la finale dei 100 metri. L'anno successivo ho esordito anche nel salto in lungo agli europei in Finlandia, saltando 6 metri e correndo i 200 metri in 24,74. Nel 2008 poi ho corso nei 100, 200 e salto in lungo, questa volta però alle Olimpiadi di Pechino. Ci sono storie che sono più storie di altre, per il semplice fatto che hanno un episodio, l'episodio centrale che poi racconta la vita della persona che lo scrive, è un episodio forte che in qualche modo ha stravolto la vita della persona che l'ha vissuto. La storia di Eros è una storia esemplare da questo punto di vista ed è esemplare per quello che gli è successo prima e per quello che gli è successo dopo. Pronto Eros? Pronto. Ciao, come stai? Molto bene, grazie mille. No, figurati, grazie a te per essere qui. Senti, dove ti trovi adesso Eros? Sei a casa, sei al lavoro? Adesso sono a casa. Sei a casa, mi ricordi che lavoro fai? Perché io lavoro presso il comune di Bardolino, in provincia di Verona. Senti Eros, veniamo a noi. Allora, quello che ti è successo l'abbiamo capito perché l'hai raccontato nei dettagli ed è una storia che chiaramente mi ha sconvolto quando l'ho letta e immagino che sia una storia anche complicata da raccontare visto che l'hai vissuta. Quanti anni fa, me lo ricordi esattamente? È stato il 28 luglio 2002, 10 anni quest'anno. Quindi 10 anni fa. Nel frattempo tu ti sei sposato, giusto? Con la ragazza che era in moto con te. Sì, esatto, sì. E avete dei figli anche? È arrivata una bambina un anno e un mese fa. Quindi hai una bimba di un anno praticamente. Eh sì. Senti, però la storia diciamo che affascina di più è il fatto che tu sei un olimpionico. Hai partecipato a due Olimpiadi. Due anni fa, sì. Adesso da due anni che ho smesso con l'atletica per motivi sia di tempo, familiari, ho dovuto smettere, insomma, ecco, quattro anni di atletica, 7 anni circa, ecco, adesso mi dedico più alla famiglia. Immagino, senti, però, quando pensi a quelle due Olimpiadi, no? Perché erano Atene e Pechino, giusto? Sì, quindi sì. 2004-2008. Sì. Tu quante discipline hai corso? Erano i 100 metri? Ho fatto, sì, 100 metri, 200 metri e salti in lungo. Senti, come ci si prepara a un'Olimpiade? Ci lavori quanti giorni, per quanto tempo all'anno? Abbiamo allenamenti tutti i giorni, tutte le sere, dopo il lavoro, dalle 6 alle 8 di sera e dopo naturalmente nel periodo estivo, periodo di gare, si gareggiava quasi tutti i fine settimana più o meno, ci spostava spesso anche all'estero per questo motivo. Ecco. E qual è il ricordo più bello che hai di quelle Olimpiadi, Eros? Di Atene o di Pechino? Beh, penso quando sono entrato nello stadio olimpico con la folla di gente, l'emozione più forte è vedere come a Pechino 80.000 persone quasi in quello stadio gigante che applaudivano, che gridavano, era una cosa impressionante. Hai delle, perché c'è questa roba che mi stupisce degli atleti, cioè mi stupisce delle ultime Olimpiadi in realtà, degli atleti che entrano per fare la sfilata di cui stai parlando tu, no? In coda, sì, dietro, sì. Al portabandiera, e non fanno altro che fare video e scattare foto, cioè hanno in mano videocamere o cellulari e fanno video. Tu hai qualche video, qualche foto di quell'ingresso? Qualcosina sì, che hanno fatto dei miei amici di nazionale e dei tecnici, sì, che poi ricordo bellissimo è rivedere proprio dall'interno, anche a distanza di qualche anno, di vedere cosa si è vissuto, ecco. Senti, invece un'altra cosa, l'atmosfera che si respira, scusa, è che sono terribilmente affascinato chiaramente dalla questione Olimpiadi, cosa si respira al villaggio olimpico in quei giorni? Quanti giorni ci sei rimasto a Pechino? Quasi 20 giorni e dopo si instaura una sorta di grande famiglia con tutti i compagni di nazionale e dopo, anche essendo comunque correre un attimo sono paralimpiadi, perché essendo appunto amputato si vedono tante realtà di gente con le disabilità più assurde e ci si rende anche, mi sono anche reso conto che la mia amputazione in fondo ero quello che stava meglio di tutti rispetto, sì, a tanti altri che avevano problemi veramente grossi ed erano lì con molta più forza anche di quella che ci ho messo io. Immagino. Senti Eros, invece venendo proprio alla tua vita quotidiana, quali sono le difficoltà ai quali va incontro una persona che ha il tuo problema? Che, scusa, me lo ricordi, è un'amputazione dal ginocchio in giù, giusto? Dal ginocchio in giù, sì. Sì, quando si sta bene, nel senso, poi io sono fortunato che anche avendo un fisico abbastanza atletico, quindi sono 65 kg, la protesi riesco a portarla molto bene, quando si sta bene va bene, poi basta un piccolo brufolino, che è una piccola escoriazione, solo la variazione del tempo, diciamo, della, sì, variazione atmosferica che cambia il volume dell'arto residuo, e lì comincia a fa anche male, è difficile anche tenerla. Tu di fatto conduci una vita, perdonami il termine, normale, nel senso che hai un lavoro, hai una famiglia. Praticamente sì, tanto che vado a scalare, faccio ferrate, mi piace tanto il trekking di montagna. E scusami, quindi... e questo lo fai con una protesi o lo fai... No, con protesi, sì, con una protesi apposta. Con protesi, sì. Senti, e queste erano cose che tu facevi già prima oppure l'incidente ti ha fatto venire voglia? Come dire, l'incidente ha fatto scattare qualcosa in più? Diciamo che la tecnica ho iniziato a farla dopo, ma il fatto proprio di avvicinarmi allo sport è stato proprio, per me era una specie di, non di sfida proprio, per una persona amputata la cosa più paradossale era proprio non tanto camminare ma tornare, cioè correre, cioè proprio l'esagerazione era proprio la corsa. Tanto certo, pensi, come dire, penso a una cosa che non posso più fare e faccio di tutto per farla. Esatto, c'è proprio il fatto di dover sfidare se stessi, insomma. Ero, senti, ti ringrazio tantissimo per il racconto e per la chiacchiera e a presto. Grazie mille ancora. Radio 24, voi siete qui, o meglio, il meglio di voi siete qui. Adesso è il turno della seconda storia. Prima ne abbiamo raccontata una che, come avevo annunciato, era traumatica, ma anche parlava di una rinascita e quindi di una gioia straordinaria dopo un dolore altrettanto straordinario. Oggi invece la seconda parte di questa puntata è dedicata a qualcosa di molto diverso da quello che vi ho raccontato prima. Mi viene sempre in mente, quando leggo e rileggo questa storia, mi viene sempre in mente, nella mia scarsa fantasia, Anna. Anna è una donna di 64 anni che vive insieme a mia nonna. Anna è ucraina e come moltissime donne della sua nazione e della sua generazione viene nel nostro paese per prendersi cura delle persone più anziane. Anna vive con mia nonna, fa tutto quello che le serve e a modo loro, in qualche modo, vanno d'accordo. Un giorno l'ho incontrata mentre usciva da casa di mia nonna e andava a Novara e prendeva l'autobus e io le ho detto: ma Anna, perché non vai in bicicletta? Lei mi ha detto: perché io non so andare in bicicletta. E mi sembrava assurdo che una donna di quell'età non sapesse andare in bicicletta e in realtà la storia che mi ha scritto Angelo in qualche modo mi spiega il perché. Racconta di queste donne che su un viale di Piacenza che si chiama Faxal, o è soprannominato Faxal o Faxal, imparano ad andare in bicicletta perché a loro serve. Sono donne che arrivano tutte da lo stesso paese, più o meno, e più o meno fanno tutte lo stesso mestiere. Si chiama Le donne dell'Est sul Faxal. Sono già un po' di mesi che vado a correre sul Faxal per mantenermi un po' in forma. Il Faxal è un viale pedonale che ai piacentini fa da belvedere sulla città. È bello perché è costruito sulle mura cinquecentesche e ci sono un sacco di platani, alberi grossi, rassicuranti. Sarà lungo un chilometro e ci sono una chiesetta, una fontanella, un mercato alimentare coperto, un campo giochi e le compagnie di ragazzini. Ecco, sul Faxal, mentre corro, io vedo delle donne che a me sembrano dell'est, che insieme ai loro mariti cercano di imparare ad andare in bicicletta. E le vedo che fanno pochi metri e poi devono mettere giù i piedi perché stanno per cadere. Oppure riescono ad andare avanti, però la bici sbisola tutta di traverso e i mariti a correre dietro per tenerle su. Il vero nome di quel viale che appunto taglia qua il centro di Piacenza sarebbe Pubblico Passeggio, però per tutti i piacentini è il Faxal. È un piccolo viale alberato di circa un chilometro e mezzo che praticamente costeggia quelle che erano le mura della cinta della città. La cosa mi fa sorridere e mi mette sempre di buon umore e penso che in quel momento quelle donne in bicicletta con i mariti accanto siano una cosa bellissima, anche se non so il perché. La prima volta è accaduto l'estate scorsa, un giorno caldo che ci si scioglieva e che solo l'ombra dei platani poteva aiutare e quel filo d'aria che c'è sempre lassù. Ed era una ragazzona bionda su una bicicletta minuscola con di fianco un gigante che in quel momento non aveva altro pensiero che controllare che lei non cadesse. Erano concentratissimi, come se stessero facendo un intervento chirurgico. E allora mi è venuta in mente la scena di un film con Robert Redford e Paul Newman, e credo si chiamasse Butch Cassidy e Billy the Kid. In quella scena, quei due, che erano due banditi del West, a un certo punto Robert Redford, ma forse era Paul Newman, non me lo ricordo, insomma, in quella scena uno dei due voleva imparare ad andare in bici, e un po' ci riusciva e un po' no, e ogni tanto cadeva, e l'altro rideva come un pazzo. Ed era una cosa strana pensare a questo bandito che poteva rapinare una banca da solo, ma non sapeva ancora andare in bicicletta. Ecco, e anche queste donne dell'Est, che hanno avuto il coraggio di lasciare il loro paese affrontando chissà quanti quali problemi, io me le immagino, che so, che magari ti sanno squartare un maiale, no? O fare lavori pesantissimi. E poi però, su due ruote, tentennano. La semplicità di un gesto come quello di imparare ad andare in bicicletta può, cioè, dare la felicità, e vedere questa donna con, immagino, suo marito che le correva vicino per, nel caso così avesse delle esitazioni, per tenerla su. Non so, mi sembra bello che ci sia sempre qualcosa di nuovo da imparare. Da imparare dalla vita, intendo. Fosse anche una cosa semplice, eh? E ci ho pensato di recente sotto Natale, quando ho visto l'infermiera che viene a fare le punture a mia nonna andare via di casa saltando sulla sua bici e dicendomi che a lei il freddo non faceva paura, però doveva stare attenta a quelli che aprono le portiere mentre sono parcheggiati. E se ne andava in mezzo alla gente piena di pacchettini, senza nemmeno sapere che era quasi festa, perché lei doveva andare in giro a far punture. Lei che ha saputo anche imparare in tarda età ad andare in bicicletta, che alla fine, al di là di tutte le polemiche, è un po' come il compleanno, no? Cioè, che non è che gli altri giorni gli amici non ti vogliono bene e tu non sei felice, è solo che quel giorno lì ti si festeggia, punto. E allora, a tutte le donne all'ascolto, che magari se lo possono essere dimenticato oppure non lo sapevano, oggi va detto. Allora, oggi gli uomini devono portarvi un mazzo di mimose, devono aprirvi la porta e sorridervi sempre, devono chiedervi se avete bisogno di qualcosa e, se è così, provvedere, devono offrirvi da bere oppure almeno un caffè. Oggi al lavoro nessun uomo può arrabbiarsi con voi, i vostri mariti e i vostri figli devono ringraziarvi per tutto quello che fate e i vostri amici devono mandarmi un SMS con sopra scritto auguri. Oggi, sappiate, non farete nulla di sbagliato. Che poi lo so che è una festa che arriva da lontano, è solo che ci sono uomini che un po' se la dimenticano. E chissà, forse ci sono anche donne che non la ricordano. Donne italiane, magari, che hanno altro cui pensare, ma anche donne che arrivano da chissà dove e che sono talmente impegnate nei loro lavori e nella loro quotidianità che non hanno tempo per festeggiare. Persone che sono lontane dalla loro famiglia, che hanno deciso di emigrare e venire a lavorare da noi. Donne che accudiscono e crescono i nostri figli, ad esempio, che si prendono cura dei nostri nonni. Donne che fanno la lap dance nelle nostre discoteche. Donne che puliscono le nostre case. Donne che la domenica vanno in bici sul Faxal e chiacchierano fra loro con un panino in mano e nei pochi minuti libere delle loro giornate. Donne che so io che distribuiscono la nostra posta e che controllano le nostre flebo nelle corsie degli ospedali. Sì, insomma, sapete che mi piacciono gli elenchi e ho la sensazione che questo elenco di lavori di donne straniere si riempirà di altre professioni. Ci saranno quindi impiegate, contabili, manager, commercianti, insegnanti e mille altre cose che io non so. A tutte le donne, quindi, che si sono dimenticate della loro festa, bisogna dire che c'è ancora un pezzo di giornata che possono usare per celebrarsi. Da qui a stasera. E secondo me si fa ancora in tempo a mettere insieme una serata discreta, eh? Solo che ci vuole un bel kit pronto per l'uso. Sia chiaro, io mi permetto di dare consigli semplicemente perché ho una sorella, una mamma, una nonna e qualche amica. E so che per quanto possa sembrare sciocco e inutile, alla fine festeggiare è sempre meglio che non farlo, no? Quindi, se ancora non vi siete organizzate per stasera, diciamo, ci sono alcuni ingredienti per passare una serata che domani possiate ricordare con orgoglio, magari fino al prossimo 8 di marzo. Intanto dovete riunire un gruppo di amiche, primo. Per fare un gruppo bastano 3 persone, quindi non perdetevi d'animo e ricordate che l'uscita a 2 non vale, quella non basta. Se siete in tante, è meglio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, invece, quello è abbastanza facile. Indossate tutto ciò che vi fa sentire belle, alte e sicure. Poi attruccatevi senza risparmiare. La serata non dovrà essere complicata, eh? Basta una pizza e una birra. E se vedrete tavolate di donne come voi, tanto meglio. Alla fine non lesinate col limoncello. Ah, ecco, vedrete ogni tanto qualche uomo, qualche tizio che si aggira con un sorriso sulla faccia e il fare piuttosto sicuro di sé. Ecco, niente, non fateci caso, quelli sono dei corteggiatori occasionali che cercano di approfittare delle serate come queste. Siete autorizzate a prenderli in giro, a calci no, direi. E tra l'altro scoprirete che diventano rossi molto velocemente. Questa sera non c'è spazio per i maschi, se non nelle vostre conversazioni, e naturalmente potete parlarvi come vi pare, male, bene. Ricordatevi che le mimose voi non dovete comprarle in nessun caso, dovete solo riceverle come dono. E se proprio siete cariche e non volete farvi mancare niente, fate una cosa, cercate su Google spogliarelli maschili e vedete in zona che locale c'è. Detto questo, considerate che io sono un uomo e che tutto quello che ho detto non ha alcun valore.